Il fico, meccana numero 28 di 8 versetti. Il nome della sura deriva dal versetto 1. Bismillahirrahmanirrahim. In nome di Allah, il compassionevole, il misericordioso. Wattini waz-zaytun. Per il fico e per l'olivo. Wat-tur-sinin. Per il monte Sinai. E per questa contrada sicura. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. In vero creammo l'uomo nella forma migliore. ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ. Quindi lo riducemmo all'infimo dell'abiezione. Eccezione fatta per coloro che credono e fanno il bene. Avranno ricompensa inesauribile. فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ. Dopo di ciò, cosa mi farà tacciare di menzogna il giudizio? أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ. Non è forse Allah il più saggio dei giudici?